I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Mentre siamo tutti un po' distratti dai risultati delle elezioni amministrative, scopriamo che oggi, 1° giugno, è un giorno particolare, è il giorno in cui si apre la stagione delle tasse. Tra IMU, TASI, IRPEF, IRAP e altri tanti balzelli, da qui alle prossime settimane dovremo versare al fisco qualcosa come 45 miliardi di euro, e sarà solo il primo acconto di un appuntamento che poi tornerà con la seconda rata tra novembre e dicembre. Intanto si parte con la scadenza del 16 giugno, 2 settimane e un giorno da oggi, per pagare le tasse sugli immobili, l'IMU e la TASI, le cui regole non sono cambiate rispetto all'anno scorso, ma continuano a impensierire gli oltre 25 milioni di italiani che hanno una casa, un altro immobile, perché il conto non sarà affatto leggero, quasi 12 miliardi e mezzo da pagare ai comuni, in parte anche allo Stato. Qui in realtà c'era una promessa di semplificazione, quella di ricevere a casa i bollettini precompilati dell'IMU e della TASI con l'indicazione degli importi da pagare, cosa che però non è stata fatta se non in pochissimi comuni. Per le altre imposte il conto sarà ancor più pesante: 32-33 miliardi per i professionisti, i commercianti, gli artigiani, i dipendenti con altri redditi e anche per le imprese, con la possibilità però sia di rinviare il pagamento al 16 luglio con l'aggiunta di una piccola la maggiorazione, sia di chiedere la rateizzazione del debito con il fisco. Forse una magra consolazione, ma si sa, con le tasse bisogna sapersi accontentare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.